It's been a long time, long time since I've seen you smile. Vi ricordiamo anche il numero di conto corrente postale per sottoscrivere a Radio Onda Rossa. Il conto è il 618-04001, da intestare a Radio Onda Rossa, via di Volce 56, 00186, Roma. Ed eccoci di nuovo in onda, state ascoltando Region Air su Radio Onda Rossa 87.9. Vi aggiornavamo poco fa su quello di cui si andrà a parlare nella prossima ora, ormai 45 minuti, abbiamo un po' cazzeggiato troppo. Andremo appunto a parlare di come siamo usciti noi studenti da questa giornata del 15 ottobre, in realtà già ne abbiamo cominciato a parlare martedì scorso, come intendiamo andare avanti. E, ci sono state diverse assemblee, una in cui si sono riuniti solo gli studenti medi, altre in cui si sono riuniti gli studenti medi con gli studenti universitari, e comunque quello che si diceva l'altra volta era che a nostro parere era inutile soffermarsi troppo sui ragionamenti rispetto a quella giornata, ma sì, era utile analizzarla, come tra l'altro abbiamo fatto, ma era importante subito andare avanti. Ed è per questo che abbiamo lanciato due giornate, una del 28 ottobre e l'altra del 3 novembre della prossima settimana. Cuando Juanita y Chan-Chan en el mar se rían arena, como sacudía el jibe, a Chan-Chan le daba pena. Llegar. Insomma, la settimana che è iniziata dopo quel sabato 15 ottobre della guerriglia urbana a Piazza San Giovanni è stata una settimana piena di assemblee in tutte le realtà che si domandavano su quello che in effetti era successo quel sabato, insomma un bel bordello molto difficile da analizzare. E, dopodiché, insomma, anche noi ci siamo sentiti in dovere, nonostante non fossimo scesi in piazza come studenti media ed organizzati, ci siamo sentiti in dovere di dare una lettura alla giornata. Questa abbiamo fatto un'assemblea in cui ci siamo chiariti, e ci siamo chiariti anche molto bene che da quella giornata bisognava uscirne presto, perché comunque non si poteva centralizzare tutta l'attenzione solo su quella giornata, ma ci dovevamo subito rimettere sul cammino per la costruzione del movimento di quest'autunno. Beh, dovevamo subito rimetterci in ballo, e infatti abbiamo subito iniziato con assemblee cittadine, collettivi dentro le scuole per rilanciare nuove date. E ecco subito che un'assemblea cittadina... Scusa, non so se ci capite che siamo tutti raffreddati. Sì, porca cazzo, il raffreddore ci ha preso a tutti. L'inverno ormai è alle porte. È bello, che, è bello che è entrato e il nostro biondone è ammalato. Appunto, stavamo dicendo, dopo un'assemblea cittadina abbiamo deciso di rilanciare subito una nuova data di mobilitazione per non rimanere fermi, per non rimanere diciamo statici a questa violazione della, a non dare spazio alle polemiche, soprattutto perché insomma l'avrete visto anche voi sui giornali, si è parlato black bloc, non black bloc, quello lì che ha tirato, che sono bruciato, e insomma quello che stanno dicendo tutti è che sono stati cancellati completamente i motivi della manifestazione. Tra l'altro la più bella uscita è stata quella d'Alemanno, che ha fatto basta, adesso niente più cortei per un mese. Noi siamo riuniti all'assemblea, abbiamo detto, ma Alemanno ci ha detto niente cortei, col cazzo, noi scendiamo quando ci pare. È un nostro diritto. Che dice, questo sia chiaro. Lo dice quel rotolo di carta igienica, quello che tieni nel bagno. La Costituzione. La Costituzione. Sì, dici? Quella sana e forte. Con la I o senza I si scrive? Vabbè, non muore. Mo controlliamo su internet. Comunque quella là, quella ormai c'ha 60 anni, è vecchia, direi. Sì, infatti dovremmo forse anche cambiarla, vero? Ne parliamo alla prossima trasmissione, dai, vediamo se qualcuno magari ci chiama, c'ha qualche idea. Vabbè, insomma, a parte il cazzeggio. Niente, perciò subito ci è sembrato di dovere dare una risposta forte a questa oddio lo starnuto. No, mi dovete scusare, però tutto di botto oggi c'avevo pure il compito di matematica, mi sono ammalato, non ci ho capito un cazzo. Niente, perciò abbiamo pensato che bisognava dare subito una risposta forte, soprattutto al nostro sindaco, che insomma è sempre stato simpatico, è sempre presente nei cori dei nostri cortei, per dirgli vattene a fanculo, in piazza tu non ci scendi, io scendo quando mi pare. E perciò abbiamo lanciato una prima giornata il 28 ottobre per ribadire qual è la nostra piattaforma, perché siamo così incazzati e perché vogliamo scendere in piazza. E poi il 3 novembre una giornata di mobilitazione più allargata, speriamo anche agli studenti universitari, in cui ci riprenderemo un'altra volta le strade della nostra città. Prima rametto bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna d'un sistema. Valuta un po' prima, rametto bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema. Nell'ultimo periodo il gioco è fatto statico, monotono, le palle sono talmente enormi che manco rimbalzano, ma schiacciano le regole, e all'arbitro che straia un cartellino danno pure del daltonico. Bazzecole, il peggio da succedere, stanno convincendo il pubblico a pagare senza scegliere, abbonandosi al satellite e restando tutti a casa, usando il nome di Repubblica per tutta un'altra cosa. Lo sport che si gioca su una piazza da un balcone, dove uno urla qualcosa e tutti gli altri che ha ragione. Brutta razza, sti tizi che in terrazza dirigono con la mazza, un gioco in cui si ammazza chi non si sa. ballazza. Da un bel pezzo c'è standazza e non prendetemi per pazzo, si ipotizza se compromissioni storiche, ma qui nel nostro stato il campionato viene giocato solamente da due squadre con le maglie identiche. Quando sei in cabina... Vabbè, vediamo di cambiare musica, che se no la mia amica di raffreddore si offende, che diceva non mi fate mai mettere la musica che dico io, giusto? Giustissimo. Ma era vero. Bella questa. Lo so, l'avevo, era bella scelta io. Vabbè, la mettiamo dopo. Adesso che ci mettiamo... Alzal, siete tutti avvisati, fantastico. Io sono la maggioranza in un paese come tanti, di santi, di fatti, poeti ed eroi. Io sono la maggioranza in un paese come dopo tanti, questo... dove io so io. E dopo questo bellissimo remix possiamo sentire la canzone normale. Infatti, a difesa del palazzo, sono la maggioranza in un paese come tanti, dove io so io e voi non siete un cazzo. Volando per Antigua sopra un volo di Stato, dove soldi e libertà sono proporzionali. Uno squilibrio di classi sproporzionato, come in Italia. Sì, ma senza barriere fiscali e false morali. Pesci cani mi braccano, mi vogliono semi libero. Elimino gli avversari a colpi di buste di liquido. Se sarò in bilico come regime libico, costruirò Milano a tre sopra un atollo caraibico. Moltiplico panette, trasformo l'acqua in champagne. Ho l'entourage col mitra in divisa camouflage. Vogliamo vincere in tanti, è duro essere onesto. Il problema di noi grandi non puoi essere modesto. A domestico vallette mi giurano fedeltà. Plasma cyborg marionetta, l'assalto del varietà. Ho un treno merci di cloni e la mia merce, con più merce nei vagoni che nei privé del billionaire. E tre televisioni, tu c'hai tre televisori. Trasmissioni di un virus che anestetizza i tuoi neuroni e polarizza l'ago della bilancia della giustizia. Da speranza chi lavora e s'arrangia, ma poi è fittizia. Io sono l'opposizione in un paese come tanti, di santi, di fanti, poeti ed eroi. Io sono l'opposizione in un paese come tanti, dove io so io e voi e voi. Io sono l'opposizione in un paese come tanti, di santi, di fanti, a difesa del palazzo. Sono l'opposizione in un paese come tanti, dove io so io e voi non siete un cazzo. Io sono il ribelle stipendiato dall'impero, difendo quelli che hanno zero, in diretta danno zero, così aggiungo un altro zero sul mio conto straniero. Vendo bot, compro yacht, poi sparisce ogni pensiero. Stiamo a sinistra in Parlamento, dove privatizziamo e andiamo in guerra come l'altro schieramento. Attaccato alla poltrona io come un gargoyle, contrasto questo governo nero come oil, ma non ne pago le spese, poi come voi. Se a fine mese batto cassa, insert coin, non faccio spese alla coin né alla standa. Sopra gli standard, sopra macchine blu, da cui spizzo la tua panda. E giù a lavorare, ma non alzo la serranda, non alzo la banga e non m'alzo da una branda. Brandisco carta e penna e metto più di una benda sopra gli occhi e scordo più di una faccenda. Faccio i giochi del nemico in trasparenza, una mano lava l'altra e tutte e due laveranno la coscienza. Laveranno i panni sporchi di omertà e indifferenza, lontano dal sole insieme ogni mia ultima speranza. Io sono uno come tanti in un paese come tanti, di santi, di fanti, poeti ed eroi. Sono uno come tanti in un paese come tanti, dove voi siete voi e io, e io. Sono uno come tanti in un paese come tanti, di santi e di fanti, a difesa del palazzo. Sono uno come tanti in un paese come tanti, dove voi siete voi. Ercole fa 12 fatiche e poi diventa Dio. Io ne faccio 31 al mese e resto solo io. Brucierei quel palazzo, ogni stronzo in doppio petto. E se mi incazzo faccio due fatiche, non prendo sonno a letto. Riempio valigie e le metto dentro all'addio. Vendo fuori a Natale, non al carnevale di Rio. Nel portafoglio c'ho la foto dei miei fio. Mica padre Pio, il papa non paga a casa. E io sai quanto Pio. Capito, se non hai tempo per pensare, figurati a protestare. Se fai salti mortali per non farti protestare. Quanto vali, te lo dice quel numero a tre cifre dentro i tuoi conti bancari. Se sei in bolletta la bolletta ti stringe agli straordinari orari. Ti capovolgono i connotati facciali, un labirinto di specchi senza via di fuga, dove più ti perdi più invecchi, più scavi la tua fuga. Siete tutti avvisati, niente gratis nel Matrix. Siete tutti avvisati. Siete mezzi salvati, quindi o vi spezzano a metà o la metà di voi sono già condannati. Siete tutti avvisati, niente gratis nel Matrix. Siete tutti avvisati. Siete mezzi salvati, quindi o vi spezzano a metà o la metà di voi sono già condannati. E torniamo online. Giusto adesso uno studente ci scriveva su Facebook a proposito proprio di questo tre. Noi sabato durante l'assemblea anche con gli universitari siamo riusciti a lanciare la giornata, ma ancora non abbiamo avuto tempo di organizzarla praticamente. Sapete che per organizzare queste giornate ci vuole sempre un sacco di tempo, c'è sempre qualche povero Cristo

jumping and the drum began to swing. You should have heard the locked out jailbird sing. Let it rock, everybody let it rock. Scusate, ma questa avevamo deciso di non metterla, ma il nostro solito... Non è vero, io avevo deciso di metterla. Tu hai visto che io... È democratico, questa è una radio democratica, teoricamente. No, democratica no, però comunque si decide collettivamente. E sì, sì. Avevamo deciso di no, e invece tu come al solito... Beh, io ho fatto mettere la musica che vi pareva, ma me la fate ascoltare. No, Dai, dura un minuto, non rompete le palle. Allora, ecco recuperato il contatto telefonico da Torino. Ci dovrebbe essere in contatto un ragazzo, se ci sente. Ci senti? Sì, ciao a tutti. Ciao anche a te. Senti, noi la scorsa settimana avevamo sentito un altro compagno, sempre di su, che ci aveva annunciato questa iniziativa di domenica, Diamoci un taglio. Avevamo detto che ci saremmo riaggiornati, eccoci. Qui ti volevamo chiedere se ti andava di raccontarci un po' com'è andata questa giornata. Sì, certamente. Partirei dal fatto che senza dubbio è una giornata che è riuscita, vista comunque la partecipazione di massa da parte dei valsusini. Da notare anche il fatto che questa partecipazione di massa non è stata fermata dal fatto che comunque la polizia ha messo in atto veramente un dispiegamento di forze imponentissimo. C'erano controlli già dalla tangenziale di Torino fino a tutte le statali, a tutte le stradine per avvicinarsi a Giaglione, che è poi il paese da cui si è partito per avvicinarsi al cantiere della Maddalena di Chiomonte. Quindi il corteo si è praticamente da subito diviso per i vari sentieri e ha incontrato anche delle reti su questi sentieri, che non erano le reti vere e proprie del cantiere, ma erano le reti di questa zona rossa

chi controlla il controllore, Chicco Aldrovandi. Omicidio di Stato, Gabriele Sandri. Omicidio di Stato, Aldo Pianzino. Omicidio di Stato, Carlo Giuliani. Omicidio di Stato, Marcello Lonzi. Omicidio di Stato, Stefano Cucchi. Omicidio di Stato, per tutte quelle morti che nessuno sa chi è stato, io so chi è stato. Omicidio di Stato. Han detto che gridava, han visto i lampeggianti. Di nome Federico e di cognome Aldrovandi. Le guardie l'hanno ucciso, la divisa li protegge. Chi ci difende dalla legge? Han detto che gridava, han visto i lampeggianti. Di nome Federico, di cognome Aldrovandi. L'ha preso con le botte questa notte di terrore. Chi controlla il controllore? Chi controlla il controllore? Chi controlla il controllore? Chi controlla il controllore? Lo ripetiamo ancora una volta, 87.9 sulle frequenze medie, la frequenza che dovrebbe segnare la vostra radio. Vabbè, questa qui una battuta già fatta la settimana scorsa, non si può ripetere. Vabbè, comunque, Radio Onda Rossa alle 16.44, un quarto d'ora alla fine di Rage on Air. Vi state per liberare di noi, per fortuna. E 0649 1750 il numero da chiamare, rageonair@ondarossa.info la mail della trasmissione, ondarossa@ondarossa.info la mail della radio. Flesh and skin will tease me through the night. Allora, stavamo sfogliando i giornali e abbiamo notato che quella dura generalessa della Merkel scopre il suo lato tenero e regala un bel peluche alla figlia di Sarkozy. Che carina! Touched your face, narcotic mindfulness, melody. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff you gotta blame. And I touched your face, narcotic mindfulness, melody. And I called your name, Michael Kidd. E io da musicista, perché fino all'altro anno suonavo in un gruppo di ragazzi miei coetanei, so quanto è difficile trovare spazio per esprimersi in questo mondo crudele. E allora volevo lanciare un appello a tutti i giovani musicisti, a tutti i giovani artisti che ci possono contattare per venire qui ospiti durante la nostra ora di trasmissione, appunto per avere un po' di spazio per mandare le proprie canzoni, per parlare, non lo so, per lanciare una mostra se si tratta di giovani pittori, e per dire la vostra sulle questioni di cui parliamo durante le trasmissioni, e anche per intervenire, insomma, sotto, per farci una chiacchierata rispetto alla vostra carriera. Lo ricordiamo, ci potete contattare sia sul profilo Facebook Regioneir oppure alla mail regioneir@ondarossa.info. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle la sin futuro. Me llaman calle la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Facendo zapping su YouTube vedevo ieri un video della nonna che ad Atena ha lanciato il sasso. Voi l'avete visto? A voglia, c'è voglia. C'è sta tutto. Una figata. Sì. No, credo, tutta a vestita bene, gente dietro con le maschere, preciso. Lei a lanciare pietre. È fantastico, convinta. Speriamo che pure in Italia arriviamo a questo livello di condivisione della lotta. Magari. I love to see you walk, moving down the floor. You're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. And on my feet, how, how, how, how. Mentre voi ascoltate le canzoni, qui in redazione si fa baldoria a tutti che ballano, specialmente il nostro biondo. Avrete notato quest'oggi poca serietà, noi ci scusiamo tanto, ma sto raffreddore ci ha data la testa. mai siamo stati seri. Beh, dici di no. Dico proprio di no, guarda. Secondo me sì. Ma è stato serio. Stati seri è stato veramente di rado, eh. No, vabbè, noi giochiamo, poi i contenuti ce l'abbiamo, dai, non è vero. Altro che raffreddore e raffreddore, qui in redazione c'è la febbre del sabato sera, tutti a ballare, tutti conga! Tutti in preda alla, all'euforia proprio. Il biondo ormai danzante, è in preda a un raptus sì, danzante tutti di pazzia. Danzanti. Ecco, ricordiamo, siamo in chiusura, metteremo un paio di canzoni. In chiusura ricordiamo gli appuntamenti. L'assemblea di giovedì il 27 alle 15:30 alla Sapienza. Il 28 giornata di mobilitazioni in tutte le scuole. E il 3 novembre corteo all'interno del primo municipio, scuole e università insieme, per far capire a Alemanno che ne perché facciamo sul serio. Perché noi Alemanno ce fan baffo. Giochiamo a chiapparella, prova a prenderci. Questo era per confermare la nostra acuta serietà che supera ogni limite.